Allora, questa era la rubrica Tecno Stories della socia Cristina. E insomma, con questo pezzo finiamo e passiamo all'ultima rubrica della giornata. Qui a Radio Risacca torniamo, come almeno ultimamente si riesce più spesso, con Metal Zone. Allora, praticamente siamo all'incirca nel mezzo della nostra esplorazione metal, da quando siamo partiti con gli inizi e fino a quando finiremo con i nostri giorni. Diciamo che la parte che abbiamo adesso, quella che viene tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, è anche la più tosta da spiegare, la più tosta per digerire, non dico per coloro che insomma fanno parte di questo movimento, ma per chi si presta da ascoltatore. Allora, il genere che abbiamo oggi, come sempre a sorpresa, è il genere black metal. Allora, il black metal nasce, come dicevo, tra la fine degli 80 e l'inizio dei 90. I primissimi gruppi, diciamo, sono proprio nella seconda parte degli anni 80. E, insomma, daremo definizioni e tutto. Io vi do intanto un piccolo assaggino iniziale. Partiamo col primo gruppo, i Mayhem. Stavamo nel 1984. We'll be right back. Ed eccoci qui, ragazzi. Questa era Freezing Moon. Allora, praticamente le tracce che sto mettendo oggi dei Mayhem, dico entrambe, vengono da una raccolta del 93 che si chiama Live in Leipzig, sarebbe Live in Lipsia in Germania. E allora, la raccolta del 93, come ho preso Freezing Moon, prendo pure un'altra, sempre contemporanea, che si chiama Pagan Fears. Prima di metterla, insomma, vorrei puntualizzare dopo l'assaggio come questo sia il gruppo riconosciuto come fondatore del black metal. Come vi dicevo, siamo nel 1984 e niente, adesso ci andiamo a sentire Pagan Fears e poi continuiamo un po' con la spiegazione da come ha originato questo genere, insomma, duro, cupo e incentrato molto sullo strumentale, sul tecnico e sulle voci, insomma, più cupe sono meglio è. Allora, ci sentiamo adesso Pagan Fears e poi andiamo avanti. Ecco qua. We'll be right back. Eccoci qua ragazzi, allora torniamo in onda e continuiamo con le spiegazioni. Allora, questa era Pagan Fears dei Mayhem. Adesso dobbiamo introdurre una one man band, così viene chiamata in gergo. Praticamente è una band che ruota completamente intorno al produttore e cantante. Si chiama Burzum. Burzum sarebbe poi il nome del cantante stesso della band, e i musicisti nel tempo sono cambiati. Allora, qui partiremo facendo un piccolo excursus, perché la musica che ascolteremo sarà anche un po' differente da quella ascoltata finora. Comunque è importante ricordare questa band nell'ambito, perché è uno dei capisaldi riconosciuti dai cultori del genere. Allora, perché questa band è diventata così famosa con questo nome? Insomma, in sostanza dobbiamo sapere che i predecessori, come abbiamo detto prima, sono stati i Mayhem, all'interno dei quali c'era un personaggio, un vero personaggio dell'epoca, chiamato Euronymous. Euronymous era il chitarrista della band e al tempo stesso uno dei maggiori produttori discografici di origine lappone. E insomma, c'è stato un brutto avvenimento tra il cantante dei Burzum e Euronymous. Secondo le ricostruzioni ufficiali, sembra che Euronymous voleva assassinare Burzum per poi insomma, prima torturarlo, poi assassinarlo per riutilizzare poi i pezzi eventuali di cadavere per foto, come aveva già fatto con il cantante della propria band suicida tempo prima. Praticamente Euronymous alla peggio e si becca 27 coltellate in totale da Burzum, e insomma se ne va dritto al cimitero, posto del quale sicuramente ha parlato varie volte. Se ne va al cimitero Euronymous, e Burzum si fa più di 10 anni di carcere, e durante i 10 anni di carcere produce addirittura 2 album. 3 ce ne abbiamo prima, dall'88 fino all'entrata in carcere, mi pare del 92-93, e poi i seguenti. Allora, io adesso inizio con una traccia e poi vi spiego il resto della faccenda. Questa è Dunk Height. We'll be right back. Eccoci tornati ragazzi in onda, questa era la prima traccia dei Burzum, Dunk Height Burzum. Allora vi metto la seconda traccia. Allora spendiamo un paio di parole riguardo a quello che successe all'epoca e di cui vi ho inoltrato, diciamo, il principale avvenimento. Questi personaggi della scena black metal, diciamo, ruotavano in generale intorno a un qualcosa chiamato Inner Circle. Praticamente era una sorta di cerchia di persone ristretta, le quali si prestavano a, come posso dire, incendi di chiese o opere in generale, blasfemi e atte a, diciamo, dissacrare insomma quelli che sono poi i luoghi sacri per i cristiani. E allora dopo questa traccia proseguiamo mettendone un'altra. Questa si chiama Jesus Todd. Thank you. rientriamo in onda su Radio Risacca, ragazzi. Allora, queste erano le tracce che ho messo di Burzum, questa era Jesus Todd, e niente ragazzi, praticamente Varg Vikernes, questo cantante di questo gruppo, sappiamo che fu addirittura accusato di nazismo e tutta roba del genere, insomma, proprio un personaggio del cavolo. Vabbè, pazienza. Insomma, adesso torniamo fra noi con quello che è il genere base invece del black metal, e molto più cantato logicamente, e andiamo a sentirci un gruppo invece stavolta inglese, a nome Cradle of Filth. La prima traccia che metto viene anche dal loro secondo disco, quello che ha fatto più successo. Questo si chiama Dusk and Hair Embrace. We'll be right back. E torniamo in onda da Radio Risacca, mandiamo un saluto a Thorfinn e Mando, appassionati del genere. Allora, questi erano i Cradle of Filth, la prima traccia si chiama Dusk and Hair Embrace e corrisponde anche al nome dell'album da cui proviene. Siamo nel 1995, la band nasce a Ipswich nel 1991 e si può dire che questo è stato il loro più grande lavoro, il secondo album. Ed è per questo che traggo anche un'altra traccia significativa dallo stesso album e adesso ce l'andiamo a sentire insieme. Questa si chiama Funeral in Carpathia. We'll be right back. Eccoci qua ragazzi, in onda da Radio Risacca, la radio che spacca. Allora, facciamo un piccolo riassunto con i Cradle of Filth di sottofondo. Allora, principalmente questo genere si sviluppa nel nord Europa, principalmente in Norvegia. Abbiamo stasera tutti i gruppi norvegesi, tranne proprio questo che è inglese. Comunque il fenomeno è proprio nord europeo. Allora, tematiche trattate, misantropia, satanismo, tutto che c'è di quello che c'è di più oscuro in assoluto. E se potete riascoltare anche con questo pezzo quelle che sono state le strumentali di base del black metal, quindi diciamo suoni distorti, voci sempre in scream. Diciamo che poi questo genere è stato anche un po' sperimentato nel tempo e fuso con altri, ad esempio con piccole punte di symphonic o gothic metal, cose di questo tipo. Allora, strumentale, tematiche e tutto, lasciamo quindi adesso i Cradle of Filth per passare all'ultimo gruppo della nostra serata, ed è anche quello che mi piace di più. Allora, nascono nel 1993 sempre a Oslo, e questi sono i Dimmu Borgir. Non ve li presento neanche, adesso ascoltate da voi. The essence of E torniamo in onda, ragazzi, con la fine di Progenies of the Great Apocalypse. Andiamo, ragazzi, con l'ultima traccia della serata. Allora, questi sono i Dim Borgir, come potete ascoltare, hanno intrusioni anche di musica classica all'interno. Questo poi venne chiamato dai posteri Symphonic Black Metal. Comunque, per arrivare al Symphonic ancora ne manca un po'. Questo era, diciamo, un piccolo assaggio antecedente. Il Symphonic vero e proprio verrà qualche anno dopo e lo tratteremo in futuro. Allora, una cosa da sapere sui Dim Borgir molto interessante è il significato del nome, perché tutti si chiedono da dove viene Dim Borgir. Sono un gruppo norvegese, hanno anche iniziato a cantare in norvegese prima di passare all'inglese, ma il nome non è affatto norvegese, il nome è islandese per la precisione. Dim Borgir è il nome di una formazione vulcanica situata in Islanda e, secondo le leggende del posto, sarebbe uno degli accessi sulla terra agli inferi. E dopo questa piccola curiosità ci andiamo a sentire The Promise Future Eons. Questa è Eccoci qua, ragazzi. Spero che The Promised Future Eons vi abbia giovato. C'è un urlo e mezzo che viene cacciato con veramente paura e potenza. Questo è quello che vuole esprimere questo tipo di musica. Per oggi, ragazzi, insomma, allora stiamo terminando la nostra puntata. Vi faccio giusto l'ultimo piccolo appunto per ricordare gli album da cui vengono le tracce di Dimmu Borgir che ho appena messo. Allora, la prima, Progenies of the Great Apocalypse, viene da Death Cult Armageddon. Invece l'ultima messa, questa qui, viene da Spiritual Black Dimensions. Allora, ragazzi, penso di avervi detto tutto il possibile e immaginabile al riguardo. E tenete a mente, ricordatevi, insomma, abbiamo rivisto un po' la storia del black metal dagli inizi a oggi, coloro che hanno iniziato, i Mayhem, agli inizi proprio, quello che è stata proprio un exploit, una particolarità in tutto il genere che è stato Burzum, diciamo i più tecnici e classici in assoluto, i più conosciuti che sono stati Cradle of Filth, il terzo gruppo che abbiamo sentito, e io penso l'apice in generale di quello che questo genere può dare in tutti i sensi, l'abbiamo appena assaporato con i Dimmu Borgir. Allora, ragazzi, questo è quanto. Spero, insomma, che la puntata vi sia piaciuta, vi siano piaciute le tracce, ci avete capito magari qualcosa di più riguardo a questo particolare genere. E io con questo vi do un saluto, vi abbraccio come sempre, e ci risentiremo alla prossima, e nella prossima, come tutte le volte, tratterò un altro genere di metal, non ve lo posso dire quale, perché sapete com'è, la rubrica Metal Zone c'ha sempre il genere a sorpresa. Andiamo comunque in ordine cronologico. Con questo, ragazzi, chiudo davvero. Un abbraccio, un bacio a tutti, grazie per l'ascolto, grazie a Radio Risacca, e ci sentiamo alla prossima.